Lunedì mattina, tra le letture che si impongono per un felice inizio di una settimana che si suppone dura, specie a una persona di una certa età come chi vi parla, ormai da qualche anno c'è quella del Corriere della Salute, l'ormai leggendario supplemento sanitario del Corrierone. Chiunque soffra di qualche acciacco ostinato, con particolare riguardo ai disturbi di stagione, le malattie della pelle e l'area cardiaca coronarica, è sicuro di trovarvi le ultime novità su diagnosi e terapie. Infatti anche lunedì 29 ultimo scorso, al mio occhio esercitato non sfugge un trafiletto a pagina 2, una mela al giorno contro l'infarto. Leggo avidamente e ne evinco che le mele, le cipolle e il tè indiano, secondo il ricercatore olandese Michael Hertog, sono la ricetta ideale per, virgolette, ridurre i rischi cardiaci. L'azione protettiva di questi alimenti, se prosegue la citazione, sarebbe da ricondurre alla presenza di sostanze chiamate flavonoidi. I famosi flavonoidi. Io non stavo per dire, se lo chiedevi a me te lo dicevo prima. Io non lo sapevo. Questi composti, prosegue l'articolo, si trovano anche nel vino rosso, cui è già stato attribuito un effetto benefico a livello cardiaco. E i risultati di questo studio potrebbero contribuire a spiegare il famoso paradosso francese. I transalpini, pur forti consumatori di grassi animali, sono poco colpiti dalle malattie cardiache, in grazia, si suppone, di un altrettanto forte consumo di vino rosso. Il lettore cardiopatico esulta. Fa un accurato esame di coscienza, constata che di tè, cipolle e mele è già un consumatore più che rispettabile, quasi industriale, e che per aumentare la presenza dei benefici flavonoidi nel suo organismo non ha altro da fare che dare un bando rigoroso al pino grigio, che oltretutto c'è un po' stufato, e di passare al Barbera e al Beaujolais, che quest'anno tra l'altro non è niente male. E magari chi lo sa, a tutti è lecito sognare, grazie a questa semplice integrazione alimentare potrà emulare i francesi, permettendosi una fettina di manzo ogni tanto e persino una mezza porzione di burro al prossimo Natale. Poi, ancora tutto contento, il cardiolettore apre l'Espresso numero 48 in data 5/12/93, ma in edicola lo stesso lunedì 29 novembre di cui sopra, e verso la fine trova la stessa notizia nella rubrica Tempi Moderni sotto il titolo Tè di mela alla cipolla. Repetita Juvan, si dice, e legge compiaciuto, due punti aperte le virgolette, una mela, un po' di cipolla e una tazza di tè al giorno tolgono il medico di torno. Vabbè, un po' banale come inizio. Uno studio olandese condotto dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica di Zutphen ha dimostrato che le persone che ogni giorno mangiano un po' di questi alimenti hanno minori probabilità di morire di infarto cardiaco. A proteggere dalle malattie del cuore sono particolari sostanze contenute in essi, così come in molte verdure, i flavonoidi. Si tratta di antiossidi naturali che ridurrebbero la tendenza del sangue a coagulare, eccetera, eccetera, eccetera. Porca loca! Ma il vino rosso che fine ha fatto in questa seconda notizia? Nell'Espresso non se ne parla assolutamente. Ma le due notizie, il rettore, oltre che cardiopatico, è un pochino esperto del giornalismo, le due notizie derivano chiaramente dalla stessa fonte, probabilmente dal settore scientifico di qualche rivista internazionale come fosse Time o Life. Il riferimento alle benefiche virtù del grignolino e del refosco è sparito dalla seconda o è stato introdotto rotatamente nella prima? È un problema mica da poco, perché i redattori del supplemento del Corriere della Sera avranno ceduto alle simpatie enologiche del loro direttore, uno che si chiama Satolvi, è difficile che sia astemio, no? O saranno stati i redattori del settimanale romano a inchinarsi alla volontà di un editore che suppongo beva solo champagne e sia personalmente allergico ai flavonoidi di qualsiasi specie? Il problema ha una quantità di risvolti sui quali non vi trattengo. Io non so come risolverlo e probabilmente non dovrei dare troppo retta ai consigli sanitari della stampa periodica. Per sapere se il vino fa bene o male suppongo che dovrei andare dal medico, avendo molta cura di sceglierne uno che non sia astemio. Ma allora perché pubblicare quelle notizie e quei supplementi? La salute, certo, è un oggetto di interesse generale, ma all'interesse particolare del malato che legge le notizie sulla sua malattia non pensa mai nessuno, porca loca, cosa deve fare costui, poveretto? Deve far finta di non aver letto niente? E io adesso, di quelle tre casse di cod di ron che ho ordinato prima di leggere l'espresso, che cosa devo fare? Oggi lunedì 29, per colmo della sfiga non posso neanche controllare la notizia su Panorama. È in sciopero contro le dichiarazioni filofasciste del suo editore. Pazienza, consolazione, se il vino rosso mi farà male, potrò dire che anche quella è una colpa di Berlusconi.